conosco casualmente, molto del Borzono. Ciò che ero prima rimane adesso ciò che sono. Vivo questa vita non in folle marcia quinta, perciò sono folle che non vive una vita spinta. Già da ragazzino con le cuffie nelle orecchie, fissato con la musica non come persone vecchie. La gente parla sempre male e non la smette, la stessa gente ripensa che ora mi ascolta e riflette. Chissà cosa sarei se non avessi fatto questo, magari una di quelle persone che ora detesto. Non riesco a non parlare male, a disprezzare ciò se questo mondo mi toglie quello che ancora non ho. No, no, vorrei riuscire a non capirmi, allontanarmi, disarmarmi, fino alla fine tradirmi. Me la vivo sul filo, come gli artificieri, nessuna modifica che ieri, tutto uguale a ieri. Ora mi vendico, this is my revenge. Vivo un giorno in quinte che gli epici cuore me. Non ho niente, io controllo del mio presente. Di testa se si sente che questo sfogo è niente. Ora mi vendico, this is my revenge. Vivo un giorno in quinte che gli epici cuore me. Non ho niente, io controllo del mio presente. Di testa se si sente che questo sfogo è niente. No shit, no jeep, no monetine, no VIP. Troia sei come il poker, bella solo se strip. Non bello, non ricco, ma neanche in videoclip. Tu sei strano come il panariello nella Spotwin. Non faccio la parte, io non ho i blim blim. Shit shit, I don't have no feeling, baby. Uggiano rappresenta tutto il blocco per la street. This rap is toxic come la Spiaz Free. Ti vedo nel club con la tipa Cinci. Ora prendere mazzate come Bud Spencer e Terence. Noi malati di mente, insane come Cypress Hill. Visita il mio sito, civestramuerti.it. F-U-B-O e non c'è freno che tenga. Lo facciamo meglio, molto meglio. We do it better. L'OQM ti fanno molto male. Tu tassi muto, perché più sei silenzioso e più piaci. Ora mi vendico, this is my revenge. Vivo un giorno in quinte che gli epici cuore me. Non ho niente, io controllo del mio presente. Di testa se si sente che questo sfogo è niente. Ora mi vendico, this is my revenge. Vivo un giorno in quinte che gli epici cuore me. Non ho niente, io controllo del mio presente. Di testa se si sente che questo sfogo è niente. Toccando il cielo senza un domani sarei felice, perché è qui che arriva 110. Vita cicatrice, donna di un sorriso a chi ha fame, a chi non appare. Slappare le braccia a chi me ne fa male, voluto male. Prego ogni giorno per vivere un solo giorno migliore, ma un soggiorno come un forno che scalda e sto l'equatore. Se domani morissi terrei la testa salta su il mento e lascerei a mia fra un testo come testamento. Non è un cazzo ma scrivere quello che sento, e più dei biglietti da 100, più di quei 10 d'argento. E so, mi farebbe meno male sapere che salvo la testa del padre e non alla destra del padre. Sono un paese da rappresentare, ma quando sputo pompo UM in modo più che esponenziale. Maggio muori fra i muri del paesino, qui no Ducati Monster, qui scudo al cinquantino. Ora mi vendico, this is my revenge. Vivo un giorno in quinte che gli epici cuore me. Non ho niente, io controllo del mio presente. Di testa se si sente che questo sfogo è niente. Ora mi vendico, this is my revenge. Vivo un giorno in quinte che gli epici cuore me.